Libro di Malachia. Messaggio. Parola del Signore ad Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice il Signore. Voi dite: come ci hai amati? Esaù non era forse il fratello di Giacobbe? Oracolo del Signore. Io ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Ho reso le sue montagne una landa, del suo territorio ho fatto un deserto. Se Edom dice: siamo stati distrutti, ma noi ricostruiremo le rovine, così dice il Signore degli eserciti: essi ricostruiranno ed io demolirò, e si chiameranno paese dell'impietà e popolo avversato dal Signore per sempre. I vostri occhi vedranno e voi direte: grande è il Signore oltre i confini di Israele. Un figlio onora il padre e un servo il suo signore. Se io sono padre, il mio onore dov'è? Se io sono signore, dov'è il timore di me? Il Signore degli eserciti parla a voi, sacerdoti, che oltraggiate il mio nome. Voi domandate: in che modo oltraggiamo il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato e dite: come lo contaminiamo? Quando dite: la tavola del Signore è spregevole, e offrite un animale cieco sull'altare, non è male? Se lo offrite zoppo o malandato, non è male? Su, presentalo al tuo governatore. Lo gradirà e ti sarà propizio? Oracolo del Signore degli eserciti. Ora placate dunque il volto del Signore e vi sarà propizio. Ma se fate tali cose, vi sarà forse propizio? Dice il Signore degli eserciti. O chi fra di voi chiuderà le porte perché non arda più in vano il mio altare? Non mi diletto di voi, né gradisco l'offerta dalle vostre mani. Sì, dall'Oriente all'Occidente grande è il mio nome fra le genti. In ogni luogo incenso viene offerto al mio nome con una oblazione pura. Perché grande è il mio nome fra le genti, dice il Signore degli eserciti. Voi invece lo profanate quando dite: la tavola del Signore è impura e l'alimento che v'è sopra è spregevole. Voi dite: oh che pena, ma mi disprezzate, dice il Signore degli eserciti, e portate un animale rubato, zoppo e malandato per offrirli in oblazione. Posso io gradirli dalle vostre mani? Dice il Signore degli eserciti. Maledetto il fraudolento, egli ha nel suo gregge un maschio e ne fa voto, ma al Signore la offre difettoso. Sì, un re grande sono io, dice il Signore degli eserciti. Il mio nome è terribile tra le genti.